Dietro una finestra sul finir della notte, le candeline brillano lassù e ci sei sempre tu, fra i pensieri miei, tra le righe di un foglio che non ti darò mai. Forse anche tu in questo momento starai ricordando qualcosa di noi, ma solo io nella notte stellata penso te. E vorrei dirti che sai che forse non c'è un'altra come te che mi faccia scordare che giorno è. Ma io forse non so se poi ti rivedrò tra una stella e un tramonto mentre ti bacerò. Sai che forse non c'è un altro come me che pensi ancora ogni momento te. Forse un giorno però vicino a te starò tra una stella e un tramonto mentre ti bacerò. Ma quando chissà e se si avvererà o solo un dolce sogno resterà, allora immaginerò soltanto te tra una stella e un tramonto mentre ti bacerò, tra una stella e un tramonto, mentre ti sognerò.